prima di così non si può. Mi dici, l'avevate preparata questo calcio d'inizio? Sì, sì, giochiamo, cerchiamo sempre di giocare davanti. Abbiamo fatto gol e felice per la squadra perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi chiamo Barry Allen, sono l'uomo più veloce del mondo. Nuno Gomes appoggia ad Amoroso il pallone di apertura. Hübner confonde il fiorentino. Poggi si inserisce, entra in aria e batte Manninger. Piacenza in vantaggio dopo appena 9 secondi. E subito il Milan che attacca, palla in profondità all'inserto di Leao, il tiro rete! Subito il vantaggio del Milan. Ciao Pierluigi Pardo. Eccoci, eccolo, là. Molto bene, tieniti lì il radio tweet, che lo facciamo, okay. Perché abbiamo il non muoverti, perché abbiamo il secondo uomo più veloce della storia del calcio italiano, battuto solo ieri. Ciao Paolo Poggi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, abbiamo sentito il gol precedente, 8 secondi, 2 dicembre 2001, Fiorentina-Piacenza. Vero che i record sono fatti apposta per essere battuti, ma di solito quelli che lo detenevano rosicano, è così? Ma più che rosicare, sai cos'è? Che mi stavo chiedendo come mai qualcuno non l'avesse ancora fatto, perché 20 anni, quasi 19 anni sono veramente tanti, e se vogliamo credere che c'è un'evoluzione nelle cose, prima o poi doveva succedere. Sì, poi la rosicata me la tengo per me. No, ma fai benissimo, guarda che è del tutto legittimo. Conoscerai Giacomo Agostini, prova a parlare di Valentino Rossi o di Marquez, cioè diventa matto. Si sa, si sa. Pier, quanti anni avevi il 2 dicembre 2001? Pochi. 27. Eri già un... Sì, facevo già il telecronista. Credo a Stream, sì, a Stream in quel periodo. Io avrei fatto proprio radio tweet su questo, cioè sul fatto che quell'episodio di ieri non è... Poi è chiaro che c'è un elemento di casualità, c'è anche la responsabilità della difesa del Sassuolo, però in qualche modo l'abbiamo rivisto con quei sei uomini di Piazza Virlì, non è una cosa del tutto casuale. Quindi c'è una forte componente di imponderabilità, questo è indiscutibile, ma c'è anche una predisposizione, quindi questa cosa va sottolineata. Allora chiederei al bomber qual era lo schema 1, 2, 3, 4 quando è segnato, esatto, il gol dopo 8 secondi. Ma io sono d'accordo con Pierluigi, perché ci sono due componenti fondamentali quando succedono queste cose così strane. Una è, come è successo nel mio caso, il disastro combinato dalla fase difensiva della Fiorentina. E la seconda è invece, come nel caso di ieri, è la perfezione calcistica di quei sei secondi, secondo me. Perché è vero che c'è sempre la responsabilità anche della difesa, però Çalhanoğlu e Leao hanno fatto due gesti tecnici in sei secondi praticamente perfetti, e solo così ci possono battere i record, secondo me. Sì, essendo perfetti e contando che gli altri dormano, perché onestamente, certo, Paolo, abbiamo visto dormita collettiva, insomma, se lo schema numero uno è sincerarsi che gli altri siano svegli, se non sono svegli allora operiamo, perché c'è la Noglu che fa 30 metri palla al piede e Leao bravissimo, si infila nello spazio, però se gli altri sono ancora in pennica funziona. Però guarda, 6 secondi e 76, ma vale anche per gli 8 secondi precedenti. Voglio dire, anche se giochi contro nessuno, non è semplicissimo. Fai fatica in 6 secondi e 76 a farti metà campo. Quindi insomma è una prestazione fisica e tecnica a prescindere. Poi è ovvio che la difesa del Sassuolo ci ha messo il suo. Sì, Paolo, Lukaku, Ibro, CR7, chi ti prenderesti come spalla offensiva? Ibra? Per vincere lo scudetto? Sì, costa gli equilibri più di qualsiasi altro giocatore. Più di Lukaku, quindi? Sì, per me sì. Io credo che per un attaccante giocare comunque con Ronaldo probabilmente è un po' difficile, no? Perché ha un ego che occupa due maglie. con no, ma anche un almanacco, però, che occupa sì. C'è un almanacco che occupa pure tutta una un'intera libreria di un loft da 200 metri quadri. Ibra, l'unico dubbio è, ovviamente in questo periodo ci sta, è la condizione fisica, nel senso che se Ibra riuscirà a trovare un po' di continuità, e paradossalmente questi infortuni di adesso col Milan, che sta riuscendo a tenere bene botta anche senza di lui, potrebbero diventare addirittura un vantaggio, no? Potremmo addirittura immaginare, se la sorte lo vorrà, un Ibra più fresco in primavera, proprio perché comunque fisicamente sta saltando dei match e potrebbe arrivare quindi più in condizione nella fase calda della stagione, ma l'incognita è solo quella. Io sono d'accordo con Paolo, insomma, poi è chiaro che sono tre attaccanti straordinari questi. Sì, sfrutto l'attuale professione di Paolo Poggio, responsabile dell'area tecnica del Venezia, che tra l'altro stiamo andando molto bene. Sì, stiamo facendo bene, meno male che non mi vedete per i gesti che sto facendo, però sì, siamo andati... Stiamo andando bene, siamo contenti. Va bene, tieni le mani sul tavolo e dimmi questo. Da responsabile della tecnica, nel tuo nuovo ruolo, allora il dubbio è: Milan, due punti, prendi qualcuno sul mercato e magari rovini queste meravigliose gite collettive dei ragazzini? Oppure vai avanti così, fai conto che Ibra guarisca, parametrato su tutto il campionato, considerate l'assenza attuale, ha giocato meno della metà delle gare, ne giocherebbe una ventina se va avanti così. Che si fa? Io starei attento a non rovinare gli equilibri, prima di tutto, per cui non cercherei di cambiare, se non proprio perché metto dentro qualcosa di straordinario. Se no me la rischio, me la gioco così. Pierluigi? No, non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Sono d'accordo. Perché c'è una cosa, c'è la famosa battuta di un presidente di qualche anno fa sull'amalgama, no? Sì. Si compra l'amalgama, ecco. Però non è un dettaglio quello, perché gli equilibri sono sottili, gli equilibri anche numerici all'interno di una squadra sono particolarmente sottili e fondamentali e decisivi, quindi Finché le cose vanno, ecco. Finché la barca va, lasciala andare. Anche quella del Venezia. Per chiudere, Paolo, che i piani quali sono? I piani, ma sai che non lo sappiamo neanche noi, nel senso che noi abbiamo un unico obiettivo, di ridare un po' di identità a una squadra che l'aveva persa e a una società che l'aveva persa. Adesso nei primi mesi stiamo riuscendo a crearla, questa nuova identità, e finché la barca va, lasciamola andare, insomma, tanto più qua a Venezia è indispensabile. La gondola. La gondola, sai, la remata da noi è molto lenta, no? Noi non abbiamo motori, noi abbiamo remi, e andiamo sempre piano, però arriviamo. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Buona giornata, ragazzi. Buon rosicamento, oltre che buon viaggio, buona armata, buon rosicamento. Durerà, ma poi passa. Durerà qualche giorno. Tranquillo. Chiamaci. Siamo compagnia. Ciao Paolo, grazie. Buona giornata. Ciao. Senti, adesso posso dirti che è veramente simpatico. Poi certo, le persone con questa risata così un po' grassa, sarà che il grasso fa parte della mia vita, ma per altri motivi. No, hai sentito che risata piena, bella, insomma, dai, è divertente. E poi ci sta anche questa componente di rosicamento. Ma certo, comunque, ma guarda che chi ti dice, no, vabbè, ma i record sono fatti per essere battuti, il mio record, vabbè, sei stato uno più bravo, però sotto sotto rosicano tutti. No, questo è un record, ovviamente, che è un record più di curiosità, insomma, con tutto il rispetto, cioè non è il record di scudetti vinti, sì, o di classifiche cannonieri, è un record su una curiosità di un determinato episodio. Anche se poi Paolo di Gol ha fatti tanti nella sua carriera, però e quindi forse addirittura ancora di più per questo può essere fastidioso, no? Che venga battuto, proprio perché è una cosa veramente originale. Senti, ti faccio ascoltare una cosa e poi, se hai voglia, parliamo di politica. Hai voglia? infatti è stato studiato, poi è andato bene, ma l'avevate preparato, si svela anche questo. Beh sì, non è che pettiniamo le bambole, insomma, ci prepariamo, ci studiamo gli avversari e proviamo delle situazioni per cercare di creare difficoltà. Oggi non cadere. Questa è la nona partita, praticamente stiamo giocando ogni tre giorni, c'è un po' di stanchezza, però bisogna stringere i denti, cercare di finire nel migliore dei modi con questo blocco di 10 partite che è iniziato un mese e mezzo fa. Un ottimo impatto, avevamo assenze importanti noi e loro e ho detto ai ragazzi che chi avrebbe avuto l'atteggiamento migliore delle due squadre secondo me avrebbe prevalso. Noi abbiamo strameritato di vincerla come atteggiamento, come spirito, come tutto. Non voglio cercare alibi. Una squadra che fa un primo tempo con grande intensità, un primo tempo dei guerrieri e dopo abbiamo fatto un secondo tempo dei ragazzini, dei bambini. Quando si arrabbia un allenatore, magari succede qualcosa, se si arrabbia un presidente è un po' più difficile. Non rispondo più in una vittoria come oggi, che voi ancora mi veniate a chiedere questa storia qua. È una cosa che si aggiusterà con la società e che aggiusterà la società. In una vittoria così, abbiamo pareggiato a Torino con la Juve, battuto la Fiorentina, abbiamo battuto l'Ajax, che ancora siete veramente un po' pesanti. Voci della domenica. No, ti dicevo, Pierluigi, parli... Viaggio, Ferronato, sì. Ferronato. Tra l'altro, sai che adesso San Milan Lazio, e c'è la curiosità che i tifosi della Lazio, quando si andava allo stadio, cantavano questa canzone dopo le vittorie, e adesso la cantano quelli del Pullman del Milan, quindi è il derby di gala, quello di mercoledì sera, ed è anche una serata di gala, ovviamente la cantante, una serata di gala vera e propria, perché è una partita che, insomma, anche questa non è decisiva, per carità, però è veramente il big match. È il big match, certamente, la commenti tu? Sì, avevi letto un po' di autopromozione, no? Ma è il big match a prescindere. No, insomma, è un big match a prescindere, anche se non lo commentassi io. Però è veramente una partita. Arrivano due squadre in una condizione, vedi, calcio com'è liquido, appunto. La Lazio uscita da quelle quattro partite, la sconfitta con l'Udinese, Spezia, Benevento e Verona. Quindi quattro partite tecnicamente, insomma, alla portata. Con appena 4 punti, però la serata di ieri cambia tutto, perché ieri si è rivisto lo spirito e la qualità di una squadra che, per esempio, in Champions nelle grandi partite non ha mai sbagliato. Certo. E contro c'è un... Vabbè, Milan è meraviglioso, dai. Milan è strepitoso, sta facendo delle cose incredibili, avrà emergenza ancora di più, ma in qualche modo è abituata all'emergenza. È chiaro che lì in mezzo al campo la contemporanea assenza di Bennacer, che sì, può essere un problema, manca, però tutto il centrocampo titolare, manca tanta roba a Milan, anche se sono bravissimi, non è che ieri ci fossero tutti e no ma tanto. Chiaro, no, ma sai, ti dicevo, il dato politico, come sai, bravo dato politico, e saluto Roberto Perrone, buongiorno. Maestro. Ciao. Volevo dire che l'ultimo che ha detto non stiamo qui a pettinare le bambole non ha fatto una bella fine dopo, non voglio buffare il povero Pioli, però è un'espressione che non porta benissimo. Senti, io sento Perrone, sono indeciso se parlare di calcio magnificamento o se parlare di Prebujun. Immediatamente Prebujun, ma tu lo sai perché si chiama Prebujun? Si chiama perché c'è un aneddoto storico, Goffredo? C'è un aneddoto storico, perché sotto le mura di Gerusalemme un crociato di origine ligure raccolse delle erbe spontanee e fece questa insalata per Goffredo di Boglio. Vedi che era Goffredo di Boglio. Da qui ha tirato a indovinare l'insalata. No, ma perché me l'aveva già raccontato Roberto, ma devo dire che meraviglioso piatto, la cucina di terra sempre, ligure, è una cosa. Sempre qui a Radio 24, sì. Ragazzi, però fatemi parlare di politica. Parliamo di politica. Di politica, perché il titolo è la Lega Nord all'assalto del turno elettorale del weekend. Milan, Inter, Juventus e Atalanta non fanno prigionieri sotto la linea gotica. Questo è il titolo. Ma non c'è neanche più la Lega Nord, ormai è Lega e basta. appunto, quindi possiamo parlare liberamente e serenamente di questa di Milan, Inter, Juventus e Atalanta che non fanno prigionieri sotto la linea gotica. Prego Roberto, mi sembra che il dato politico degli weekend sia questo. Sì, io credo che sarà un discorso a tre per lo scudetto. Juventus, Inter e Milan mi sembrano tornate quelle, insomma, che le squadre che erano più scudetti, le squadre più forti. Sono contento per il Milan che veniva fuori da un lungo esilio e ha fatto la prima campagna acquisti mirata e non buttata lì, insomma, come quando prese Piontek a gennaio, che era una mossa che poteva fare chiunque, bastava averci i soldi e se lo portava a casa. Invece quest'anno hanno fatto una campagna acquisti intelligente. Io mi autodenuncio, non pensavo che il Milan arrivasse a questo punto, cioè pensavo che il campionato di luglio fosse una illusione, cioè che il Milan avesse fatto bene perché non aveva più niente da perdere e quindi non aveva obiettivi e quindi avesse fatto una stagione straordinaria, però una stagione estiva. Invece ha fatto benissimo l'Inter. Io non è una previsione, non è la squadra più forte, perché sennò la più forte è la Juventus, però ho questa visione sciamanica che vince lo scudetto l'Inter. Però è una cosa sciamanica, cioè non ce l'hai solo tu, ma... diciamo la Juventus è la più forte, l'Inter mi sembra quella in grado, così, per Conte, per tutta una serie di situazioni, di vincere lo scudetto. Il Milan è veramente straordinario, è una squadra, si è visto, appunto, l'avete già detto, si è visto domenica quando con tanti pezzi importanti fuori comunque ha costruito, veniva da due pareggi in rimonta, insomma è una squadra che vale. L'Atalanta, io credo che l'Atalanta, insomma, ripetersi per l'Atalanta sarebbe veramente lo scudetto, cioè, certo, nel senso che mi sembra che stia sistemando a modo suo, cioè un po' brusco, un po' ma non rumoroso, però un po' virile i suoi dissidi interni, no? E ha ripreso quella faccia, la faccia che aveva prima. Sì, esatto, cioè soprattutto ha recuperato questo giocatore che, appunto, come sappiamo, più che un infortunio aveva avuto una crisi esistenziale, cioè Ilicic, che è sempre stato fondamentale nel gioco di Gasperini per queste sue accelerazioni, dribbling e invenzioni, insomma. Quindi queste quattro squadre sono molto forti. Io sono un fonsecchiano, cioè nel senso che a me Fonseca mi piace molto, sia come allenatore, come personaggio, insomma. Poi uno che dice le cose, cioè non è uno che viene lì sempre a cercare, appunto, a cercare di fare il fenomeno, ecco, e mi piace molto. Però effettivamente è vero, cioè con le grandi, quelle, diciamo, pari grado, comunque dello stesso livello, fa un po' di fatica, ecco. Sì, quello sì. Sì, abbiamo... ecco, il Napoli mi par strano con la rosa che ha, che ieri c'era tanti assenti, però malgrado quello, ecco, beh, comunque Napoli è la squadra che si concede il lusso di tenere due attaccanti comunque che potrebbero far comodo, come Milik e Llorente, fuori rosa. Lo facevo notare ieri, spiegarlo a un marziano che arriva sulla terra diventa un po' difficile, però noi sappiamo benissimo come vanno queste cose. Certo. Piuttosto, Pier, 5 sconfitte cominciano, compresa quella che magari verrà rivista domani a tavolino, bla bla bla, la storia di Napoli, di Juventus-Napoli, eccetera. Però 5 sconfitte cominciano a somigliare a un verdetto. Sì, assolutamente. È chiaro che, insomma, ieri c'era un livello di emergenza, non può diventare un alibi, non deve diventare un alibi. La squadra va in ritiro, sono sicuro che Gattuso sia arrabbiatissimo. Si poteva reagire, come ad esempio ha fatto il Milan, però è oggettiva. La situazione del Napoli di ieri è veramente oggettiva, perché quando tu vai a giocare una partita contro una grande squadra come la Lazio, senza i tuoi due attaccanti migliori storici e ovviamente anche senza Osimhen, quindi senza i tuoi tre migliori attaccanti, beh, insomma, è proprio un pezzo fondamentale che ti manca. Però sicuramente poi adesso bisogna capire Lozano, insomma, cioè, la situazione si è veramente ingarbugliata ed è un po' un peccato, perché il Napoli aveva mostrato delle scintille di talento nella prima parte della stagione clamorose, e adesso, insomma, difficilmente, secondo me, potrà potrà tenere botta, anche perché poi bisogna appunto verificare il livello degli infortuni, Fini torna, però insomma non, premio Sfiga, secondo me premio Sfiga, abbastanza per distacco, ma vedremo ovviamente che succederà con il verdetto su Juve-Napoli. Volevo dire una cosa sull'Atalanta, Gasperini ha un po' ragione, ma non perché non gli debbano fare le domande, anzi adesso le domande, quella domanda lì che posso capire, che non abbia infastidito, lo posso infastidire in questo momento, per lui è una grande occasione, perché è l'occasione di far capire a tutti, indipendentemente da quello che è successo, io non so se chi abbia ragione e chi abbia torto, però sicuramente la squadra sta rispondendo. Quindi appunto il dato politico, dai, oggi giochiamo con questa espressione, il dato politico è questo, il dato politico è che l'Atalanta senza un suo leader fantastico, un giocatore meraviglioso come il Papu Gomez, e in una situazione di turbolenza comunque si è aggrappata alle sue certezze e ha reagito. Sì, quindi in questo momento chi ha ragione è la società. E certo, perché è fondamentale. Bisogna fare i complimenti alla società. L'atteggiamento della società è fondamentale. L'Atalanta ha detto stiamo con Gasperini, il Papu è sul mercato, non gli diamo la lista gratuita perché non esiste, però la presa di posizione della società in questa vicenda credo sia fondamentale. Ma guarda, 2 settimane fa ne parlavamo, 10 giorni fa, quando è successo il casino, e insomma, ma è ovvio, non è questione di simpatia o di antipatia, ripeto, io non so nello specifico, andando a cena con uno e con l'altro, a chi darei ragione, perché non so quello che è successo, però dal punto di vista della centralità, un grande allenatore come Gasperini, se ha ancora voglia, evidentemente ha ancora voglia di stare a Bergamo a regalarsi grande calcio, per me è più decisivo di un grande giocatore come il Papu Gomez. Sì, sì. Questo è. Sono d'accordo con te. Questo. Poi chi ha ragione non lo so. Senti, tu a questo punto fai come Roberto Perrone e infili il Milan tra le favorite, perché fino a ieri dubitavamo, io continuo a dubitarne ancora, credo che l'obiettivo debba essere quello. 10 centimetri dietro, decidi tu mezza lunghezza dietro, perché io credo che l'Inter e la Juve siano più strutturate, ma ripeto quello che dico ormai da settimane, questo per il Milan è un vantaggio, ed è un vantaggio che forse il Milan sta anche capitalizzando, perché riesce a giocare ancora con un barlume di leggerezza che quando sei in testa alla classifica difficilmente riesci ad avere. Invece questa squadra continua ogni settimana a sorprenderci nell'emergenza, con la sua qualità, con la sua sfrontatezza, con la sua leggerezza. Questo è dovuto al fatto che ovviamente ci siano grandi qualità tecniche e morali, al grande lavoro di Pioli. Secondo me incide un po' anche questo, quando i tifosi del Milan ogni tanto si lamentano e dicono considerateci, conviene al tifoso del Milan che il Milan possa passare per outsider. È chiaro che più va avanti e meno sarà così, e glielo auguro, no? Perché è talmente in alto in classifica, 31 punti in 13 partite, 9 vittorie, 4 pareggi, 29 gol fatti, 14 gol subiti, e come fai a considerarlo un outsider? Però io credo che Inter e Juve abbiano più pressione addosso. Ma certamente hanno più pressione addosso. E comunque Chioso, come dicevate poco fa dell'Atalanta, dell'importanza della società, che è fondamentale per la costruzione di una squadra, anche in questo caso del Milan di quest'anno secondo me è fondamentale la società. È il primo anno da almeno 3, 4, 5 qui non si parla più di società, se ci fate caso, cioè tutti i dibattiti sui vari dalle vendite alle compravendite, passaggi di società, dirigenti, litigi eccetera, sono spariti. Questo secondo me è un dato importante. Beh, un po' aiutano i risultati, Roberto. Sì, no, aiutano i risultati, ma voglio dire, anche secondo me c'è anche, sono stati anche regolati i rapporti interni. Io credo che il Milan abbiano fatto una sistemazione. Infatti, per adesso non si sente nulla. Qualcuno che poteva dire qualcosa, magari come Boban, che era, cioè, diciamo, l'opposizione è andato via, anche lì io non so come sia andata veramente, però adesso hanno trovato una loro quadratura interna. Secondo me questo giova anche alla squadra, ecco. Sì, in ogni caso siamo alla vigilia della verifica dei poteri, Pier, perché perché certo. Insomma, come notano quelli che seguono il Giro d'Italia o il Tour de France, all'orizzonte ci sono le due grandi montagne. Prima dicevi giustamente, non so se tu Roberto, in ogni caso, che la Roma con le grandi non vince mai. che l'Inter fa fatica nei grandi match. Ebbene, a gennaio, tra il 6 e il 17, la Juventus viene due volte a Milano, prima con il Milan il 6 e poi con l'Inter il weekend del 17. Poi c'è anche Roma-Inter, poi c'è anche Roma-Inter, che è una grande partita ed è un test interessantissimo. C'è Milan-Lazio adesso, che è un test appunto fondamentale. È cambiato il passo, è cambiato il passo soprattutto dell'Inter, che è arrivata a 6 vittorie consecutive senza brillare, mentre il passo della Juve, se guardiamo le ultime gare in classifica, è meno brillante, però si sono viste delle scintille invece clamorose. Cioè, da una parte hai visto una regolarità, se vuoi un po' noiosa, ancora inespressa, ma che ti fa capire che l'Inter può diventare sempre di più una protagonista, perché se cresce un altro po' migliora ulteriormente e già sta facendo dei numeri in campionato molto importanti. E dall'altra invece non vedi ancora la continuità, che è quello che ha detto candidamente Buffon a fine partita l'altro giorno. Ha detto da Juve di Pirlo servono 7-8 risultati consecutivi di un certo tipo, prestazioni di un certo tipo. Ancora non siamo così, però cominci a vedere sempre più frequentemente delle scintille di una squadra che può essere dominatrice. Quindi io penso che anche tutte le previsioni sul, io continuo a pensare, campionato delle sette sorelle, una media scudetto più bassa rispetto agli anni scorsi, e già di fatto è così, perché già lo vedi. Però la tendenza di quest'ultimo mese è che Inter e Juve stanno cominciando a marciare. Certo, il Milan continua, e chi invece per altri motivi si è un po' perso, per me la Lazio è una squadra fortissima, però sicuramente ha pagato un prezzo per la Champions League di discontinuità. Il Napoli sta pagando il prezzo degli infortuni, alla Roma forse manca ancora qualcosa in termini proprio di tenuta mentale. E poi la Lazio è quella stessa. Esatto. Come? La Lazio è sempre la stessa, cioè sì, dal bene e del male, diciamo. I giocatori decisivi sono sempre quelli. Certo, cioè, quest'anno certo, praticamente, malgrado la campagna acquisti che non è stata limitata, e poi alla fine sono sempre quei 3 o 4 quelli fondamentali, dei nuovi acquisti non abbiamo più sentito nulla, no? Mi pare. No, certamente, ma d'altra parte su questa squadra Sprazzi, ormai c'è poco da coprire. Sì, Sprazzi, ma niente Scalante, di rivoluzionario. È stato male. Questa è la grande sfida della Lazio, ma Inzaghi lo dice anche lui, lo dice in maniera molto, molto sincera. Cioè, questa è una squadra che, secondo me, ma numeri alla mano, nei 13, 14, 15 giocatori l'anno scorso, finché aveva il vantaggio di giocare una partita a settimana con le altre che facevano le coppe, era in quella condizione pre-lockdown incredibile e stava affacciandosi alla testa della classifica. Poi, con un calendario più compresso, certo, per avere più quel certo vantaggio delle coppe, insomma, certo, il limite strutturale di una rosa che non ha 20 titolari ma ne ha 15-16 massimo, viene fuori. No, ma poi ha ragione Roberto, sono quei 3 o 4 che determinano il livello di rendimento della Lazio, facilmente individuabili, la spina dorsale. Grazie Roberto, a presto. Grazie, abbraccio. A tutti voi, colgo l'occasione, come si dice, per fargli auguri un caldo e felice Natale. Sì, e viva il capo magro, viva il capo magro. Il capo magro, mi raccomando, quando fai il Genoa parlane pure. Che ti vedo un po' filo sandoriano. Aspetta, meglio mandare la borsa, sennò scateniamo la rissa. Ma che borsa, ma che borsa. Ancora l'autobiografia di Castano, ancora. Domani. Quel gol del Milan dopo 7 secondi, più che una prodezza direi una dormita colossale della squadra avversaria, perché quella squadra tutta schierata, bisogna essere proprio degli addormentati. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Volevo solo dire il mio parere sul Papu Gomez. Per me lui dovrebbe chiedere scusa alla squadra, alla società, ai tifosi, all'allenatore, a tutti per quello che ha fatto e per quello che l'Atalanta gli ha dato. 6 secondi, però era anche un gol irregolare e dovevano annullarlo, anche questo andrebbe detto. Signori, ma fino a 3 giorni fa doveva essere il Napoli sicuramente tra le prime quattro e non il Milan. La Roma sicuramente tra le prime quattro. Insomma, è meglio che... forse dovete raddrizzare il tiro, ragazzi. Allora, mi sono dimenticato colpevolmente di dare i nostri contatti, visto che adesso ascoltatori time, 800240024, un numero verde, WhatsApp, vocali, li avete già sentiti perché siete bravissimi, 349-238-6666. Non so se Pierluigi vuole raddrizzare qualcosa. No, no, ma io raddrizzo tutto, quello che serve da raddrizzare lo raddrizzo. Il Napoli, il calo del Napoli, è, vabbè, ieri sera è stato inquietante, praticamente non ha giocato, merito ovviamente della Lazio, ma anche del merito del Napoli. La doppia assenza, ragazzi, la tripla assenza, Mertens, Insigne, Osimhen, secondo me è una roba, oggettivamente non deve diventare un alibi, ma oggettivamente sta crollando il mondo addosso, cioè... No, poi Luca, però ci sono i tifosi del Milan che dicono: no, certo. Poi ci sono i tifosi del Milan che dicono: no, manca Ibra, che sì. Infatti, lo rivediamo ogni minuto. Ma il Milan è l'eccezione. L'eccezione, il Milan è l'eccezione, e anzi, lo dicevo 20 minuti fa: il modo in cui ha approcciato la partita con il Sassuolo, con tutta l'emergenza, è incredibile. Ma attenzione, il Milan è la. Mi alzo in piedi. Faccio così, mi alzo in piedi, eccomi qua e batto le mani, no? Perché lo facciamo ogni giorno. Cioè, il Milan è da inchino. Il Milan è oggi, se devi dare un premio della critica al campionato, al di là del fatto che è anche la capolista, quindi questo tra l'altro anche, non è un dettaglio, ma anche se dai un premio, diciamo, della critica, no? Basato su delle caratteristiche non oggettive, ma diciamo di valutazione complessiva. Sono 25 risultati utili consecutivi, ma di cosa stiamo parlando? Non siamo qua a sminuire niente. Io dico soltanto: se Milan vince lo scudetto, è un'impresa paragonabile a quella dell'Ester di qualche anno fa, no? Esatto. Però detto questo, ci sono, e questo non è correggere il tiro, ma è una cosa che diciamo da un po': due aspetti. Uno, un calendario estremamente compresso, che quindi favorisce l'equilibrio, e lo vediamo in giro per tutta l'Europa. E questo equilibrio è molto di più rispetto al passato. Quindi la possibilità di piazzare un colpo da parte di un outsider di lusso, come è in questo momento per me il Milan, un outsider di lusso straordinario, e poi il mercato, e questo ne parlavamo anche ieri pomeriggio, il mercato è una variabile, perché è vero che è difficile toccare, il discorso che facciamo prima dell'amalgama vale tantissimo per il Milan, toccare la squadra in questo momento è difficile, però un paio di cosette le puoi fare. E sì, anche perché devi guardare un po' oltre il momento, no? Intanto sta lì, ma questo non è raddrizzare. Poi sul Napoli, onestamente, sì, certo, guardo la classifica oggi, fra l'altro bisognerà capire che succederà con la sentenza, guardo la classifica oggi, guardo degli alti e bassi che la squadra ha avuto, una volta ha perso magari un po' per sfiga, una volta ha perso perché c'erano tutti fuori, una volta ha perso perché ha beccato un Sassuolo fantastico, sono d'accordo con te, cominciano ad essere un po' troppe queste sconfitte. E sicuramente le cose non stanno tirando, questo è discutibile. Quanto alla Roma ne parliamo tra un attimo dopo Achille da Varese. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io siccome ho sentito all'inizio che si parlava di record, volevo fare una domanda al signor Pardo, se si ricorda o se sa chi ha il record di imbattibilità nelle categorie professionisti come portieri e quanto è durato. Domanda da trivial. Sì, esatto, cioè in Serie A è Buffon, che è andato a battere il record di Seba Rossi in quel Torino Juve 1-4 arbitro Rizzoli di 5-6 anni fa di pomeriggio in casa del Toro. Basta anche la risposta? No, certo che la so, per questo sono diventato tifoso del Lecce. Nel 74-75 Emerick Tarabocchia, 1791 minuti, circa 20 partite. Quindi era una domanda trabocchetto. Emerick Tarabocchia è molto cattivo. Non... Nato a San Sego l'8 dicembre, adesso un po' Wikipedia avanti, 8 dicembre 1946. Sì. Portiere 74-75 a Lecce, ex Genoa, Rapallo, vedi che torna il dottor Perrone. Genoa, Rapallo, Potenza, Sorrento, Lecce, Bari, Lucchese. Sì. E poi Chiavari da allenatore. Ma record in che categoria? E sto cercando qua, sto cercando. No, okay, io sono qua che non subì gol per 20 partite. Non subì gol per 20 partite. Quello che resta ad oggi, regole di battibilità per... Allora, cerchiamo record Tarabocchi. Tu vai avanti con la puntata, io tanto sono... No, io sto ascoltando te. Ormai, no? adesso è solo Tarabocchi a lei. Record Tarabocchi, è esattamente quanto è accaduto, esatto. Consegnato 1791 minuti. 1700, esatto. Ma in che categoria? Era in Serie C. Ah, in Serie C. Quindi anche la categoria titolissima, sì. Assolutamente. Va bene. Vabbè. Confesso tutta la mia Tarabocchia, più profonda ignoranza. Io confesso la mia enorme oceanica, poi parlo anche di vela, oceanica ignoranza, ma per fortuna ho Pierluigi Pardo. Vabbè, comunque se avete altre domande da trivia, le 800 24 00 24, sì, siamo qua. A proposito, hai sentito cosa è successo ieri nell'attuale Lega Pro in Serie C? Casertana. Mamma mia, tra l'altro, notizia... grande caos. No, per riassumere, per chi si fosse messo soltanto ora all'ascolto, ieri c'era questo Casertana Viterbese. La Casertana si era già, secondo le regole, giocata la settimana precedente il jolly delle quattro assenze, quindi hai la possibilità di domandare il rinvio. Ieri 15 giocatori positivi, quelli delle giovanili non contano perché non rientrano nel protocollo di cui sopra, quindi si presentano a giocare in 9 contro la Viterbese, di cui 3 febbricitanti, le notizie di oggi 2 positivi, tra questi 3 febbricitanti. Viene chiesto rinvio respinto al mittente secondo rigido regolamento e 3-0 per la Viterbese, ma questo mi sembra quasi un inutile corollario. Sì, la cosa più inquietante ovviamente sono i 2 positivi, i 3 con la febbre e i 2 positivi, questo ti fa capire che insomma, cioè, non sono ancora arrivato a una morale di questa situazione. È chiaro che qualcosa, più di qualcosa non ha funzionato, il protocollo per sua definizione deve trovare delle regole, poi c'è sempre l'eccezione, c'è sempre il caso in cui queste regole ci sembrano profondamente ingiuste. È una situazione complicatissima, l'unico auspicio è che insomma i 2 positivi, che non si capisce perché abbiano giocato onestamente, i 2 positivi non abbiano infettato altre persone, contagiato altre persone. No, ma secondo me gestita abbastanza male in ogni caso questa roba, certo, perché perché non è scritto da nessuna parte, malissimo. Comunque non c'hai giocatori, e ne hai 9, 3 stanno male, c'è chi ha un paio di piani di sopra, no? Non si è presentato a Torino, domani c'è la sentenza, non so se questa vicenda possa avere dei riflessi o degli effetti, però mi sembra che veramente sia stata gestita non in maniera perfetta questa storia. Vabbè, Pier, ti saluto perché ti lascio studiare, perché le domande sono in agguato. Come si chiama il portiere? Non mi ricordo più. Mi ripeto. Tarabocchia. Tarabocchia. Tarabocchia. Beh, lo cerchiamo, no? Lo convochiamo di questi giorni. Ci proviamo. Vabbè. Sentiamo domani. Ciao amico mio. Ciao. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi un ospite con cui sono molto ansioso di parlare, ma lo facciamo tra un attimo. Adesso viene fuori che il gol di Leao è irregolare, aveva un piede sulla riga, ma dai! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Ora io starei ore a parlare con Roberto Lacorte, che è il condottiero, oltre ad essere mio amico e ne sono molto felice, è il condottiero di una nave molto affascinante e unica nello sport italiano. ci vorrebbero ore appunto per raccontare nei dettagli questa magnifica nave, perché c'è Tirare, un piccolo mondo che raggruppa il calcio, sponsor, vedete sulle maglie, no? Sponsor del Parma e del Pisa, che comprende il motorsport in maniera importante perché è il team che partecipa al mondiale Endurance, e la vela con una nuova sfida all'orizzonte dopo varie Rolex Cup, ma comprende anche Academy dei piloti e dei velisti. Ciao Roberto. Ciao Carlo. Cosa mi sono dimenticato? Ciao. Tante cose. No, basta così. Altrimenti ti prendo troppo tempo, se vuole. No. Perché poi l'entusiasmo parte, lo sai com'è, no? E ci divertiamo a parlare di sport, di tutto quello che c'è intorno al significato, che è veramente affascinante. Ci divertiamo un sacco, ma io volevo approfittare in maniera molto bieca della tua competenza per far dire due cose su quanto stiamo vedendo di notte ad Auckland. Perché chi guardava, forse una volta abbiamo anche parlato di persona, chi guardava Azzurra con Cino Ricci ormai molti anni fa, a me sembra ieri perché sono molto anziano, ora si ferma di notte sulle immagini delle World Series della Coppa America e pensa che sia un film di fantascienza, Roberto. E questo è l'antipasto di una cosa che io trovo sensazionale, cioè una cosa fantastica. La vela aveva bisogno di una cosa del genere. La vela ha dei problemi per la tipologia di sport che è, di essere raggiunta nel comunicare, no? Perché siamo in mezzo al mare, e questo è un modo per far sognare le persone, far prendere le emozioni, queste barche che da delfini, da balene diventano uccelli che volano, una cosa bellissima, e una tecnologia che addirittura supera la tecnologia che si incontra nei gesti più importanti come può essere la Formula 1. McLaren, che ha collaborato con Team Ineos, dicono che c'è più software, c'è più tecnologia, c'è più lavoro in queste barche che in Formula 1, e quindi è una cosa sensazionale. Però allo stesso momento è fatto di uomini ancora, di vele, di tessuti, di acqua, di preparazione, di gruppo, sono le stesse persone che pochi anni fa andavano su barche tradizionali, ora volano, ma voleranno sempre di più le barche, perché le Coppa America è così, è come la Coppa America, tutte le volte è dirompente, porta qualcosa di interessante, di sbalorditivo, è la regata delle grandi cose, dei grandi armatori, delle grandi tecnologie scoperte sensazionali. Stavolta veramente ha fatto una rottura importante che troverà sicuramente un seguito. Sì, no, è pazzesco perché appunto volano. Adesso poi ti chiedo i dettagli tecnici anche del progetto che hai, ma prima dimmi, da pilota di macchine e di barche a vela, Luna Rossa può tornare in queste condizioni a farci svegliare di notte con l'America's Cup? Ma sicuramente, ti ho detto, questo è l'antipasto, è già acceso gli anni, discussioni, ha intervallato le persone, ha fatto dormire, ha fatto fare tanti sbadigli durante il giorno, e Luna Rossa, io conosco tantissimi ragazzi che sono lì dentro, hanno una cosa che non si compra, che è la passione, la voglia di vincere, a partire da Patrizio Bertelli, che è una persona innamorata e con le idee ben chiare. Dovranno mettere a posto alcune cose, queste regate sono fatte apposta per, come fine tuning, per la preparazione delle barche per il momento importante, che sono gli scontri fra i challenger, per poi andare a sfidare il detentore, che sono i Kiwi, e Luna Rossa ne ha di cose da fare. So che hanno tante tante cose da sviluppare, e la base è forte, perché abbiamo visto che poi l'ultima regata contro i neozelandesi, se non ci fosse stata la penalizzazione, è la nostra regata, quindi i numeri sono dalla nostra parte, siamo tutti lì, sono tre team molto vicini che se la giocano veramente bene. Senti, tu sei un pilota, perché il tuo team partecipa, tanto per dire, a 24 ore di Le Mans, per usare la gara che è più nell'immaginario collettivo, ma l'intero mondiale di motorsport, no? di Endurance, appunto. Corri con le barche a vela, ecco, cosa vuol dire adesso fare il pilota, sia delle macchine che delle barche? Qual è il grado di similitudine? C'è tantissima similitudine, specialmente se parliamo di endurance nel motorsport. È un lavoro, in tutti e due sono, è un lavoro fatto di squadra. Nell'endurance il pilota è importante, ma altrettanto importante chi sta al box, quindi si chiama crew l'equipaggio anche lì in endurance, quindi è uno sport di gruppo, tecnologia a livelli esasperati, utilizzo stessi materiali, carbonio, telemetria, sensori e grado di concentrazione e focalizzazione di chi conduce altissimo, quindi la componente mentale molto molto molto molto alta. Tutte e due sono due ambienti diversi, sulla terra e sull'acqua, e che però hanno tantissimi punti di contatto. Ad esempio, magari l'attività mentale, di allenamento fisico un po' più avanzata nel motorsport, e portando le acquisizioni, le conoscenze in questo tipo di allenamento nella vela, ad esempio nella vela siamo riusciti a fare dei passi veramente molto, molto importanti anche lì. E nella vela cosa stai facendo? Cosa stai combinando? Beh, l'attività, questo progetto è partito un anno fa, quando abbiamo iniziato, abbiamo aderito a un programma molto bello, quello dei 69S, una categoria One Design, quindi monotipo, barche tutte uguali, di 7 metri, che volano, sono barche che volano, quindi che, come vediamo in Coppa America, escono dall'acqua e toccano delle velocità che sono incredibili. Tipo? Tipo il record del 69S è 34 nodi. Traducimelo in chilometri orari. Ma raddoppiamo, 70 km orari. Sull'acqua sono veramente tanti, come andare a 300 all'ora sull'asfalto. A livello di concentrazione e di percezione è come superare 300 all'ora in macchina. E quindi anche lì, poi la cosa bella è che ha un grado di fisicità, quindi preparazione atletica, fisico mentale altissimo, perché tutto a quelle velocità diventa rapido. E da un anno quindi abbiamo armato due barche, ho ingaggiato i miei ragazzi di Supernicca, che per 5 anni abbiamo regatato su una barca tra virgolette tradizionale, con dei buoni risultati, e un anno fa ho voluto prendere questa strada delle barche che volano. Abbiamo armato quindi due barche, 6 ragazzi, che saranno i 6 ragazzi che si stanno concentrando ormai da 3 mesi con una intensità molto molto alta nel nuovo progetto, che è un 19 metri che è praticamente un Coppa America, che è fatto però per affrontare le regate offshore. Per adesso lavoreremo in ambito mediterraneo, però ci sono tantissime sfide molto belle nel Mediterraneo, come la Giraglia, la 151 miglia, le regate, la Rolex di Porto Cervo, Palermo Monte Carlo. E questa barca è una barca che nei numeri teorici che stanno venendo fuori dal progetto è una barca che vola sui 45 nodi, quindi a quelle velocità, ma anche volando anche diciamo in maniera safe, rallentando per motivi di sicurezza anche a 35 nodi, è una barca che ha la potenzialità di rompere tutti i record con la tecnologia che stiamo vedendo tutte le notti. Ecco, queste notti le vedremo sempre più dei Coppa America, quindi un full spoiler che ha lo stesso impostazione progettuale di un Coppa America. Barche che volano. Grazie Roberto. Senti, ci risentiamo ovviamente per la Coppa America. Noi all'inizio di Radio 24, quando c'era la prima luna rossa, facevamo lunghissime dirette notturne, c'era anche Fabio Tavelli che le conduce. Bellissimo. Chissà che non si riesca a fare anche in questa Radio 24 2.0. Però poi non garantisco sui miei infervoramenti davanti ai giri di bordo. Ciao, un abbraccio, grazie davvero. Ciao, grazie. Ciao Roberto Lacorte. Io ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice in remoto, Marco Santoro, Thomas Rolfi, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!